24 mattino. L'intervista. Eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:21 minuti. Voglio salutare l'onorevole Osvaldo Napoli. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei, buona giornata e buona settimana a tutti i radioascoltatori. Allora, lei è del Popolo della Libertà, è sindaco anche di Valgioia, è presidente in questo momento dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, quei comuni che oggi protestano a Milano. Ma onorevole Napoli, ma c'è bisogno di questa protesta? Abbiamo letto che i tagli ai comuni forse rientrano, almeno in parte. Beh, credo che ormai la macchina, come dire, organizzativa era impossibile fermarla. Vi sono circa 800 adesioni di sindaci di tutta Italia, ma non sarà una protesta, come dire, eclatante nel senso, ma sarà una constatazione di una situazione che è venuta a si creare di disagio nei confronti degli enti locali periferici. Ed è giusto ribadire alcuni concetti, ecco, quindi credo che in tutti i casi l'iniziativa che l'ANCI ha portato avanti in queste ultime settimane, che è un'iniziativa bipartisan, né di centrodestra né di centrosinistra, ma un'iniziativa di buonsenso, sì, di capacità amministrativa, abbia portato e stia portando dei risultati, direi, importanti. Infatti siete sulla prima siete nel senso come comuni sulla prima pagina dell'Unità, i sindaci contro la manovra oggi, no? Questo è per lei. Ma io devo dire la verità, i sindaci erano contro una manovra. Certamente attendiamo da parte del governo, attendiamo, come dire, dei fatti concreti. Sì. Mi pare che per quanto riguarda, se lei mi permette, i piccoli comuni, il confronto interno al PDL, ero presente io insieme al ministro Calderoli e al coordinatore nazionale del PDL Angelino Alfano, e sono estremamente sincero, richiesto anche dal presidente Berlusconi a me personalmente fortemente, che il mantenimento dei piccoli comuni fosse mantenuto, perché sono i riferimenti delle traduzioni della cultura, certamente abbinandoli non tanto ad un risparmio ma a una razionalizzazione dei servizi. Credo, cioè, che sia ecco, un buon concetto. Cerchiamo di capire, allora, per far capire agli ascoltatori, onorevole, siamo chiari, i piccoli comuni, cioè quelli sotto i 1000 abitanti, secondo lei vanno mantenuti? È tutto? No, secondo me. Secondo Berlusconi, secondo Berlusconi, secondo Calderoli, secondo tutti? Secondo tutti, cioè vengono mantenuti sotto i 1000 abitanti, viene abolita la giunta, sì, vengono ancora diminuiti i consiglieri comunali che già prendevano 17 euro lordi, che con questa normativa non prendono letteralmente nulla, quindi avranno un consiglio comunale formato da 3 di maggioranza, 2 di minoranza, più il sindaco. Ecco, questo sarà, come dire, il fulcro amministrativo. Uno snellimento, però vengono mantenuti. Però mi permetta, sì, tutto quanto verrà confluito nell'unione dei comuni, che sarà anche sopra i 1000 abitanti, dove tutti i servizi verranno svolti dall'unione dei comuni, compreso il cosiddetto bilancio consolidato, che significa che l'unione dei comuni farà i bilanci anche degli altri comuni. Sì. Quindi credo, vabbè, che sia un grande passo avanti di razionalizzazione. Dopodiché i tagli, pare, non più 6 miliardi ma 3 miliardi agli enti locali, dunque dimezzati i tagli. Le province, onorevole Napoli, lei è anche sindaco di Valgioie, credo, in provincia. Viene chiamato Valgioie perché Valle delle Gioie, una valle bellissima e nel verde. In provincia di? Provincia Torino. Di Torino. Ovviamente le province rimarranno, l'ennesimo scherzo. No, insomma, le province, però attenzione, le province anche noi chiediamo uno stralcio di 15 giorni per quanto riguarda i piccoli comuni, per approfondire riga per riga. Le province avranno certamente, da quanto ne so io, una razionalizzazione e avranno un provvedimento ad hoc in tempi brevissimi proprio per questa razionalizzazione. Mi permetta anche su questo, perché se vengono abolite, la strada burocratica è costituzionale e quindi ha un iter molto lungo. Se vengono razionalizzate è sufficiente il provvedimento del Parlamento. Insomma, tutto questo, visto che i saldi devono rimanere invariati, vuol dire che bisogna trovare risorse da un'altra parte. Anche lei è per l'aumento dell'IVA? Beh, io credo che l'aumento dell'IVA sia il più appropriato. In Germania l'hanno fatto senza nessun problema già da circa un anno e mezzo fa, quindi io credo che l'IVA sia uno dei provvedimenti che siano, come dire, che possano andare bene a recepire risorse senza andare a colpire i consumi. Quindi non la pensano così i sindacati, per esempio anche Bonanni oggi dice se toccano l'IVA colpiscono i pensionati, colpiscono i consumi. Ascolti, però mi pare che i sindacati facciano quella loro parte e la politica deve fare la sua. Vede la botte piena e la moglie ubriaca, diventa difficile, questo lo sanno anche i sindacati. Forse credo che tutti quanti dobbiamo capire che l'importanza di un momento come quello di oggi, di una crisi profonda, non può essere vista in maniera settoriale, quindi da qualche parte non vi sono dubbi che le risorse bisogna trovarle. Vanno trovate. Sono dubbi che le risorse, ci sarebbe necessità ancora di più di riforme strutturali, welfare, costi della politica, pensioni, enti locali, servizi pubblici locali. Ecco, credo che oggi il cittadino comprenderebbe anche l'opportunità di fare dei sacrifici a condizione di vedere che in prospettiva ci siano dei risultati. La politica oggi deve avere questa capacità. Però il cittadino sì, è disponibile a fare i sacrifici, lei dice, forse a vedere anche fare dalla politica, ma questo è un altro tema. Però l'ultima domanda è questa, onorevole Napoli: come la mettiamo con Tremonti? Perché Tremonti continua a dire, ma tutti contro a cambiare questa manovra, come se l'avessi voluta io, quando è stata votata dal Consiglio dei Ministri. Non è una manovra che ho partorito da solo. Allora, che succede oggi? Perché danno un Tremonti isolato, un Tremonti dimissionario, un Tremonti che... Io credo che il problema di oggi certamente è uno solo, che lo dico, può darsi che mi sbagli, è la prima volta che vi è stato all'interno di una maggioranza, dopo aver certo approvato un decreto per mandare un messaggio anche ai mercati finanziari, ecco, credo che per la prima volta ci sia stato un dibattito interno notevolissimo all'interno della coalizione di maggioranza, che ha coinvolto anche gli organi di partito e ha coinvolto le persone interessate a quel tipo di provvedimento. Io stesso sono stato chiamato in veste di presidente facente funzione dell'ANCI e quindi di esperto al tavolo della trattativa. Quindi dispiace, cioè Tremonti questa volta credo che dovrà capire che le richieste a saldi invariati che arrivano da tutte le parti politiche che compongono la maggioranza dovrà subirle. Se ci fossero stati dei mutamenti rispetto ai saldi, certamente avrebbe avuto le sue ragioni. Lo so, ma se non le vuole subire... Dalle dichiarazioni che appaiono di Berlusconi, di Calderoli, di Maroni e di Alfano, tutti quanti sono indirettati tassativamente a saldi invariati. No, ma se non le vuol subire, che fa? Se ne va? Se ne vada? Beh, no, io credo che in democrazia, guardi, io sono di quelli che le battaglie, fra virgolette, le faccio all'interno della maggioranza. Se poi all'interno della maggioranza la maggioranza è più maggioranza di quella che dico io mi adeguo. Però credo che Tremonti debba fare questo, cioè non può esserci un uomo solo al comando che decide, ma deve essere però un gioco di squadra. Non si vince mai da soli, ma si vince tutti insieme. O si perde. Va bene, intanto la ringrazio, buona giornata. Ovviamente oggi la manifestazione, grazie Osvaldo Napoli, come detto deputato onorevole del Popolo della Libertà, ma anche presidente facente funzioni dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, dell'ANCI. E allora, ANCI che oggi protestano a Milano, i sindaci che protestano a Milano contro Italia, la finanziaria, anche se sappiamo che i tagli sono in parte, almeno dall'annuncio, già rientrati. I comunelli sono salvati, le province per ora sono salvate. Vabbè. Questo è, cari ascoltatori. Noi continuiamo a parlare di manovra, tra poco, dopo la pubblicità, ci concentriamo su questa campagna che anche su Facebook spopola, la campagna sulla manovra paghi anche il Vaticano, una campagna portata avanti soprattutto dai radicali contro i presunti privilegi fiscali concessi alla Chiesa italiana, al Vaticano, e contro i quali il direttore di Avvenire ha tuonato. È una campagna portata avanti con menzogne da parte di radicali e della massoneria. Tra pochissimo. 24 mattino. E allora eccoci qua, le 8 e 33 minuti. Vogliamo parlare nel nostro sondaggio di quello che è un aspetto della manovra finanziaria, vale a dire una campagna che sta soprattutto spopolando su Facebook. Il titolo è "La manovra la paghi anche il Vaticano". È una campagna che sta portando avanti anche i radicali contro i presunti privilegi fiscali di cui gode la Chiesa, di cui gode il Vaticano e contro il quale da un paio di giorni il quotidiano dei Vescovi Avvenire si è scagliata dicendo sono le solite menzogne, una campagna assolutamente bugiarda per attaccare la Chiesa che ha chiamato il paese a fare una stretta contro l'evasione fiscale. Che ne pensate? È il tema del nostro sondaggio di oggi. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, pensate che sia giusta questa campagna, la paghi anche il Vaticano, la manovra? Ci spiega di che tipo di campagna si tratta il segretario dei radicali Mario Staderini, che ritroviamo. Buongiorno Staderini. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Non è la prima volta che ci occupiamo tra l'altro di questo tema e l'abbiamo già invitata. Voglio salutare con lei un europarlamentare, il presidente degli eurodeputati del Popolo della Libertà, Mario Mauro. Buongiorno onorevole Mauro. Buongiorno. Anche perché ricordiamo che in Europa, e l'Europa si dovrà pronunciare su questo tema. Allora, intanto Staderini, iniziamo a partire dalla coda, da questi due ultimi giorni, perché ci sono stati degli editoriali molto duri da parte del direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Ieri, tra l'altro, è apparsa anche una lettera del segretario del Popolo della Libertà, Angelino Alfano, che su Avvenire dice: sono totalmente d'accordo con lei, direttore, con quello che c'è scritto su Avvenire. Beh, l'accusa del direttore d'Avvenire è quella di, da parte vostra, dei radicali, di dire delle menzogne, di spacciare dei dati falsi, e anche un'accusa, a dire, la solito attacco dei radicali e della massoneria. Vi ha accomunato anche in questa campagna. Staderini. Il mandante, insieme al gran maestro della massoneria, di un complotto, si diceva una volta, masso Pluto radicale contro i privilegi del Vaticano. Mancavano giusto appunto il gatto Silvestro, Gargamella e Lupe Zeghiele. No, la questione è semplice: si inventano un attacco contro la Chiesa per meglio occultare i privilegi del Vaticano. Noi radicali chiediamo semplicemente che le attività commerciali, tutte le attività commerciali della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose paghino le tasse al pari degli altri, e chiediamo la riduzione, se non proprio l'abrogazione, dell'8 per mille. In una manovra in cui si taglia di tutto, e anche la spesa sociale, beh, sarebbe impensabile che l'unica cosa che non si può toccare sono i privilegi del Vaticano. Ma perché voi volete, per esempio, toccare questa cosa, il fatto dell'esenzione del pagamento dell'ICI per le attività commerciali, anche se, vi rispondo sempre dalle colonne di Avvenire, sapete benissimo che tutti coloro, non so, gli enti di promozione sportiva, i sindacati, i partiti stessi, i circoli culturali, sono esentati anche loro dall'ICI, insomma. Ve la prendete con la Chiesa, mentre questa è una legge che vale per tutti, per tante associazioni, insomma, per tante categorie. Ma innanzitutto non tutte quelle che loro menzionano, ma anche loro dovrebbero pagare. Noi abbiamo presentato un emendamento, vedremo in Parlamento chi lo voterà, in cui parliamo delle attività commerciali di tutte queste realtà, certo non solo del Vaticano. Noi siamo contro il finanziamento pubblico delle chiese, perché crediamo che, come in Inghilterra, come in Francia, come in America, si debbano finanziare con i fedeli che danno le sottoscrizioni, ma siamo contro il finanziamento pubblico dei partiti. Tant'è, un altro emendamento che presenteremo sarà per l'azzeramento totale del finanziamento pubblico. Si tratta di un approccio diverso, che è quello più delle democrazie liberali, in cui effettivamente non si può statalizzare tutto, ma in questo caso è concorrenza sleale nei confronti degli altri, di chi fa impresa e la fa pagando tutte le tasse, ma soprattutto servirebbe a ridurre, ad esempio, l'8 per mille, quel miliardo di euro che ogni anno la CEI incassa. Parliamo di 5 volte quanto prendono tutti i partiti messi insieme, e che spende anche per motivazioni incredibili, cioè ci si pagano ad esempio con 10 milioni di euro l'anno i tribunali della Sacra Rota. Cioè, l'assurdo è che una coppia di fatto che viene osteggiata dal Vaticano è costretta, anche se non vuole, a versare il suo 8 per mille per pagare la Sacra Rota. Ma tra l'altro, all'8 per mille tra poco ci arriveremo. Tra l'altro, se volete intervenire, 800 24 00 24, non l'ho detto, questo è il numero per intervenire in diretta. Vorrei, dall'onorevole europarlamentare Mario Mauro, che ne pensa lei? È un attacco sbagliato, un attacco miope, un attacco squilibrato quello che i radicali o altre forze fanno nei confronti dei presunti privilegi fiscali della Chiesa, Mauro? Vediamo se ci riesce con gli argomenti della logica e della razionalità, che sono un presupposto di laicità, ad entrare nel merito, evitando di fare confusione e, peggio ancora, disinformazione tra le più becere. Intanto partiamo dal sito. Il Vaticano deve pagare la manovra, viene voglia di dire, e perché? Nel senso che il Vaticano è un altro Stato, perché dovrebbe un paese, forse formica, pagare per i guai di un paese cicala? Sì, il titolo non è azzeccato. Il problema più logico è la Chiesa italiana. No, guardi, non è nulla di casuale, perché se uno fa un sito per dire il Vaticano deve pagare la manovra italiana, sta dicendo una imbecillità, e questo va rimarcato, specialmente un servizio che fa informazione lo deve fare. In ogni caso, se invece il problema è la Chiesa italiana è inserita come un soggetto che fa anche attività di natura sociale in uno Stato, quello italiano, dove al privato sociale si riconosce di contribuire attraverso l'espressione più meritevole della nostra società allo Stato. Più società fa bene allo Stato. L'abbiamo detto tante volte, l'ha detto anche il Partito Democratico, nel quale sono inserito a mo' di carrozzone i radicali a pieno titolo, fruendo del passaggio per i propri deputati in Parlamento. E che cosa si dice sostanzialmente in tutta una serie di provvedimenti che sorreggono il privato sociale? Che se tu fai un'attività senza fini di lucro, paghi meno degli altri, semplicemente, non perché questo è un privilegio, ma perché tu fai risparmiare allo Stato. Perché attraverso tutte quelle attività tu sgravi lo Stato di mettere in piedi attività di welfare che costerebbero 10 volte tanto. Sì. Quindi se ha senso il parlare di esenzioni fiscali, è perché attraverso questo si rende la macchina dello Stato meno pesante e si prende tanto della fiscalità per destinarlo ad altro. Questo è il principio fondante quelle norme. Quindi altro che obbligare tutti quanti a pagare, come si vorrebbe anche per la Chiesa nel caso dell'ICI. Se noi trovassimo nella nostra società tantissimi soggetti che, esercitando, pur essendo di natura privata, un servizio di natura pubblica, noi non dovremmo far altro che sostenerli, perché in questo modo la convivenza civile sarebbe non solo migliore, ma sarebbe diciamo possibile anche risparmiando. Senta, tant'è vero questo che mi viene in mente, sì, guardi, un paragone tra gli altri: siccome il concetto di servizio pubblico si estende a 360 gradi anche all'informazione, forse mi dimentico io, ma mi sembra per esempio Radio Radicale sia largamente sovvenzionato dallo Stato. Ah, questo sì, questo sì, Staderini, effettivamente un'obiezione che anche qualche ascoltatore ci manda via SMS. Allora i soldi che arrivano a Radio Radicale dallo Stato e per il quale ogni anno combattete, perché dite forse ce li tolgono, forse no? Noi combattiamo insieme, perché ad esempio combattiamo anche noi che crediamo in quell'aspetto di servizio pubblico. Sentiamo Staderini. No, dicevo, qua non confondiamo i piani. Radio Radicale offre un servizio pubblico, cioè vero, non quello che dice Mauro, ho capito, che sono le attività ricettive. Cioè noi prendiamo dei soldi perché la radio, anziché trasmettere quello che vuole, trasmetta le sedute del Parlamento. Però non vuole 10 volte meno di quello che non vuole radio. Negare il servizio sociale che svolge la Chiesa, insomma. Lei non è un amante della Chiesa. Stiamo parlando di tasse che non sono il servizio sociale, sono le attività commerciali. Con questo voglio che dica Mauro. Voi dite non vogliamo tassare Caritas, mense, Ma no. Tutto ciò che la Chiesa utilizza sotto un paravento di un'opera religiosa, ma in realtà è un'opera commerciale, è un'attività commerciale vera e propria. Onorevole Mauro, questa obiezione la piace di più? La Chiesa cattolica dice in chiare lettere che le proprie attività commerciali pagano. Se Staderini ha consapevolezza di qualche attività commerciale esercitata dalla Chiesa che non paga, vada dalla procura, non faccia le trasmissioni alla radio. Vada alla procura e chieda di inchiodare chi fa attività commerciale e non paga alle proprie responsabilità. Questo è il fulcro e anche la denuncia fatta in sede europea dai radicali, che aveva questi presupposti, si sta arenando per queste semplici ragioni, perché l'Europa ha constatato che una legge dello Stato c'è, che questa legge vale per tutti. Se ci sono aspetti di patologia, ma io finora non ne ho rinvenuti, che eccedono la fisiologia, Staderini vada alla procura. Fuori le carte e faccia delle su questo effettivamente Staderini, cioè l'obiezione anche da parte, non so, di Avvenire, io ho letto tanto gli articoli di Umberto Folena, di Marco Tarquinio, è a dire non è vero quello che dicono i radicali, cioè che anche che gli edifici che hanno un utilizzo di tipo commerciale non paghino l'IVA, cioè non è vero, è una menzogna. E da qui, cioè, come se ne esce, Staderini? Voi dite che è vero, loro dicono che non è vero. Come facciamo, Staderini? Lei, voi avete denunciato casi specifici che sapete di evasione dell'ICI? Certo, se ne esce con i dati ufficiali. Io do i dati del sindaco di Roma, Gianni Alemanno, non certo un nemico del Vaticano. Ha risposto alla mia interrogazione parlando di 25 milioni di euro che vengono meno al bilancio del Comune di Roma a causa dell'emendamento, diciamo, di quella legge Berlusconi-Bersani che introdusse l'esenzione per le attività non esclusivamente commerciali, cioè quindi anche commerciali. E all'interrogazione firmata marzo 2011, sempre di Alemanno, che dice che ci sono stati solo nella città di Roma 11 milioni di elusione fiscale di enti ecclesiastici recuperati dal Comune di Roma. Allora, questo è un secondo conto. Allora, questo è un secondo conto, appunto, l'elusione, ma l'esenzione è all'interno della legge. No, l'esenzione è all'interno della legge, questo, voi combattete per questo, ma ci sono casi di edifici che sono utilizzati a stretto scopo commerciale e che la Chiesa dice paghiamo l'ICI su quello, lo paghiamo l'ICI, lo possiamo testimoniare, e voi dite non è vero, non lo pagano. Glielo sto dicendo, a Roma ci sono casi da 11 milioni di euro, cioè il Comune di Roma ha beccato enti ecclesiastici. Ah, ecco, questa seconda parte, non le esenzioni che sono previste dalla legge, poi se si vuole si cambia la legge. Allora, 800 24 00 24, vorrei sentire Cinzia da Milano prima di andare al traffico. Cinzia, buongiorno. Ah, buongiorno. Dica. Io volevo dire una cosa molto semplice, dato che io sono atea, non capisco perché bisogna dare l'otto per mille alla Chiesa. Sì, in più, perché mi c'è dà una molto legge. Fastidio. Ma non mi piace questa legge. E vabbè, lotti per cambiarla. Già per questo. Lotti per cambiarla, elegga dei parlamentari. No. E in più non capisco questo fatto che si dica che la Chiesa provvede a tutte queste opere di carità. Io non voglio proprio che la Chiesa, cioè i preti, provvedano queste opere di carità. Capite, Cinzia, è però proprio contrario siamo al mio modo di pensare. Sì, ma il suo modo di pensare all'interno della democrazia, forse se è maggioritario vince, se è minoritario perde, insomma, così funziona le regole del gioco, Cinzia, che possiamo farci? Cioè, la sua opinione. Io sono convinta che la Chiesa obiettivamente non può, non paga sicuramente l'ICI, cioè è chiaro che se ne approfitta, basta pensare allo IOR eccetera eccetera, non credo una sola parola. Vabbè, non so, questa è una sua opinione, andrebbe poi corroborata dai fatti, però ripeto, Cinzia, la sua opinione è rispettabilissima, ma siccome ci sono il concordato e tutto, è un'opinione in minoranza, e comunque dall'8 per 1000 ripartiremo tra poco, perché anche su questo c'è qualcosa da dire, le accuse dei radicali, sentiremo Mario Mauro invece cosa dice, anche l'Europa si dovrà esprimere su questo, l'8 per 1000 tra poco. Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Allora, la manovra la paghi anche il Vaticano, questo è uno slogan che gira su Facebook, anche se giustamente devo dire lo slogan è totalmente inappropriato, se si vuole, nel lessico, ed è importante perché effettivamente il Vaticano, essendo uno stato estero, cosa c'entra con la manovra finanziaria italiana? Però è il concetto delle questioni portate avanti anche dai radicali, dei presunti privilegi fiscali della Chiesa contro i quali si scagliano. Voglio sentire, prima di tornare dall'onorevole Mauro, Daniela da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Dica. Daniela da Roma, volevo dire che è vero, lo Stato deve pensare, ma nel frattempo le migliaia di persone che muoiono di fame è grazie alla Chiesa che campano, le milioni di persone che adesso vengono aiutate per un piatto di minestra, per un quaderno, per poter imparare a leggere e a scrivere, sì. Perché l'apertura mentale è data anche da qualcuno che insegna loro a leggere e scrivere. Aspettiamo che lo Stato giustamente ci pensi, ma intanto che lo Stato non pensa, cosa facciamo? Però questo facciamo, Daniela, morire di fame, no, certo, persone. Daniela, lei però ha sentito che i radicali dicono noi non vogliamo chiedere l'ICI o tassare le iniziative come la Caritas, le mense, no, queste no, vogliamo tassare solo quelle strutture appartenenti alla Chiesa che vengono utilizzate con uno scopo commerciale, cioè dalle quali si guadagnano dei soldi, non certo le persone o le strutture che aiutano le persone bisognose, come lei dice. Essere dove il benessere, cioè lo stare bene, è solo per alcuni, tutto il resto non conta. Tutto il resto non conta, è vero che ci sono delle strutture, ma anche in casa, se c'è una famiglia che funziona bene, ci sono delle strutture. Non è importante avere un padre o una madre disposta per chiedere ai figli di apparecchiare la tavola. Va bene, Daniela, io la ringrazio. Onorevole Mauro, le chiedo l'otto per mille, anche l'Europa si dovrà pronunciare su richiesta che credo dei radicali per capire se siano aiuti di Stato, e aiuti di Stato ovviamente non conformi alle regole. Poi sentiremo che tipo di accuse fa Staderini sulla questione 8 per 1000. Sull'8 per 1000 è tutto regolare. Secondo lei la Chiesa in queste ristrettezze economiche non dovrebbe dire ok, rinunciamo a una parte dell'8 per 1000? Non vedo questa motivazione, cioè l'intesa che fonda la possibilità dell'8 per 1000 è un frutto derivato di un atto, il concordato, che regola le relazioni tra Stato e Chiesa in un paese come l'Italia, peraltro affiancato da numerose altre intese che lo Stato italiano ha sviluppato con altre confessioni religiose e anche diciamo regolato rispetto a se stesso, con la possibilità per i cittadini di partecipare attraverso la stessa modalità alle iniziative che fa lo Stato. Non credo che neanche che rappresenti un oggetto specifico di una denuncia dei radicali in sede europea, che ricordo invece essere fatta a proposito delle esenzioni relative all'ICI. Di una battaglia dei radicali, sì, quella più in generale relativa al concetto stesso dei concordati. Sì. Peraltro è proprio questo che ci fa tante volte sottolineare come i radicali, come testimoni il loro stesso nome, siano una forza ottocentesca, cioè una forza che trasferisce un afflato di natura anticlericale in una concezione dello Stato che non è più moderna, perché una concezione moderna, come cercavo di spiegare prima, vede tutti gli attori della dinamica sociale, siano esse profit che non profit, uniti in un unico intento, che è quello di rendere più plausibile la convivenza civile e di far risparmiare lo Stato attraverso una serie di servizi che vengono erogati anche da soggetti di natura privata. Allora, Staderini, siete ottocenteschi, radicali, siete super, siete anche un po' mangiapreti, questo dobbiamo dirlo, Staderini, non credo che sia un'offesa. No. Noi se siamo anticlericali lo siamo per religiosità, perché come tanti italiani, cattolici compresi, siamo stanchi che il potere e il denaro soffocano da una parte la libertà della Chiesa cattolica stessa e poi soffrono anche lo Stato. Ma due precisazioni: uno, lo ripeto, vogliamo tassare esclusivamente le attività commerciali e non le attività di culto; due, la Caritas e gli altri enti non pagheranno ovviamente l'ICI, ma voglio ricordare anche che per fare quei servizi di mensa, di assistenza agli anziani, prendono fior di milioni di euro dai comuni, sono pagati con delle convenzioni, poi ci sono i volontari, certo, e fanno un grande servizio. Terza cosa, guardate che c'è anche un'altra tassa, che è l'IRES, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che gli enti ecclesiastici per default, cioè per legge, hanno ridotta per la metà. Perché? Ma come perché tanti altri enti, sono equiparati? Senza dubbio, ho capito, solamente c'è un problema, sono equiparati agli enti di beneficenza, ma il problema è proprio questo. Io sono favorevole a chi fa beneficenza, non paghi le tasse, ne paghi di meno, ma il problema è che non si deve dare per scontato per legge, perché con tutte le case che ci sono, l'abbiamo visto, le case ancora oggi, e porto i nomi e cognomi, vengono sfrattati dalle case, quindi con i vantaggi fiscali del Vaticano in senso lato, quindi di tutti gli enti ecclesiastici, vengono sfrattati persone di 75 anni e disabili, per darle a chi poi? Ai potenti, come è capitato. Mentre invece voi sull'8 per mille voi dite, c'è questa, quella che voi chiamate truffa, cioè moltissimi italiani non esprimono con l'8 per mille, non fanno nessuna crocetta, diciamo così, non destinano nessun 8 per mille a nessuno, né allo Stato, né a nessuna confessione religiosa, e di questa cifra che non è specificata nessun italiano, dove va? Viene ripartita comunque in base alle preferenze scelte da chi invece la crocetta la mette. Questo è il punto. Esattamente, è diventata 1 miliardo di euro, era nel 1990 210 ma milioni. Ma chi dovrebbe euro. Andare secondo lei? Allo Stato no, perché manco allo Stato viene. No, dovrebbe rimanere nel bilancio dello Stato, stiamo parlando di cifre enormi. Ma uno allora dovrebbe scrivere un pezzo di manovra. Uno dovrebbe scrivere la do allo Stato, la do alla ricerca scientifica, la do. Ma anche qui. Se non lo scrive, come dire, che ma non lo sa. Noi chiediamo che si faccia campagna, che si sappia, ma soprattutto che si riduca questa cifra, perché lo dice la legge. C'è un segreto di Stato, c'è una commissione che da 20 anni, ogni 3 anni dovrebbe ridurre o proporre la riduzione del gettito dell'aliquota, cioè dall'8 al 4 per mille, se la cifra aumenta troppo. È aumentata per 5, gli stipendi dei preti sono semplicemente raddoppiati. Che ci fanno questi soldi? Ve l'ho detto, ci pagano ad esempio le associazioni che fiancheggiano politicamente la CEI, ad esempio quelle antiabortiste, quelle che hanno combattuto contro la legge 40. Allora, tra l'altro, onorevole Mauro, lei prima parlava di questo sito Facebook, no? Noi le abbiamo chiamato, lo si vuol far chiamare solo con il nome di battesimo, Alessandro, lo saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno ascoltatori, lei buongiorno onorevole Mauro. E lei è uno degli amministratori, uno dei fondatori di questa pagina Facebook, che quanti contatti ha raggiunto? 100? Guardi, abbiamo 137.000 contatti. 137.000. Però questo non è veramente il dato così importante. Il dato importante è che abbiamo 220.000 persone che guardano la pagina, perché alcuni non hanno fatto mi piace, e abbiamo avuto 30 milioni di letture dei post. E va bene, però guardi che l'onorevole Mauro, che è qui che l'ascolta, le ha detto: ma che vuol dire la manovra paghi anche il Vaticano? Cioè, già nello slogan il Vaticano è uno stato estero, è come chiedere che paghi la manovra la Svizzera o il Portogallo la Jugoslavia, la ex Jugoslavia, insomma. Ok, Serra. Perfetto, le spiego velocemente con le poche nozioni che ho, perché sicuramente le signor Stadiarini sono molti più di noi. Comunque, dalle nostre ricerche, prima di tutto, siamo nella Repubblica Italiana, che è uno Stato laico, prima di tutto, per cui se c'è una laicità dello Stato e c'è un accordo tra due Stati come l'Italia e il Vaticano, bisogna anche pensare che abbiamo tipo la conferenza episcopale, che, come dicevo penso un giorno Stadiarini, fa un po' il gioco delle tre carte, cioè quando hanno voglia loro c'è una conferenza episcopale, quando vogliono e quando vogliono utilizzano i diritti del Vaticano come Stato. E un'altra cosa è questa qua, quando lei stava dicendo sul fatto di poter scegliere dell'8 per 1000 e darlo allo Stato italiano, io le voglio ricordare a tutti voi che il Vaticano o la Conferenza Episcopale spende 10 milioni di euro per la campagna di pubblicità con una delle agenzie più grosse del mondo, che è la Saatchi & Saatchi. Ecco, e allora se gli altri. Cioè, per dire, cari italiani, destinate l'8 per 1000, perché facciamo questo, le mense dei poveri. Certo, però spendono 10 milioni di euro per una campagna pubblicitaria perché se lo possono permettere. Per cui sarebbe bello destinare lo stesso spazio e uguale in televisione sia all'8 per 1000, sia quello destinato allo Stato o anche alla Chiesa Valdese o altre entità. Ma se la pagano loro, se la pagano loro, però questi 10 milioni. Cioè, con i soldi che chiedono. Che chiedono agli italiani, che non sono estorti, sono chiesti agli italiani, insomma. Chiedono agli italiani: cari italiani, dateci dei soldi perché noi facciamo le mense dei poveri. E gli italiani danno dei soldi. Poi c'è... Perché nel 1991, con la legge che cominciò a darci 200 milioni di euro all'anno, che si sono moltiplicati per 5, e c'è un articolo, guardi, che è l'articolo, noi abbiamo chiesto delle domande, abbiamo fatto delle domande ai segretari di partito, dove l'unico chi vi ha risposto? Stadiarini. Sicuramente Mario Stadiarini risposto adesso. È vero, ecco. Stadiarini. No, infatti tutti i partiti contrari. A questo proposito, Mario Mauro, abbiamo un minuto per chiudere. Vuole dire qualcosa, insomma, agli animatori, che comunque della pagina Facebook, che ha molti contatti, guardi che non sottovaluti l'aspetto popolare anche del fatto che molta gente sente questa campagna come una campagna giusta. Ma intanto ringraziare Alessandro per averci ricordato che l'Italia è uno Stato laico, quindi credo laicamente abbia sottoscritto un accordo con un altro Stato che prevede delle intese precise. E da questo punto di vista una cosa è lo Stato del Vaticano, una cosa sono i cattolici italiani, che forse sono anche più di 137.000, e che evidentemente sono cittadini di serie A, non di serie B, e che essendo cittadini di serie A nelle loro forme organizzate stipulano a loro volta accordi precisi con lo Stato. In fondo, qual è il succo di tutta questa vicenda? Che una legge c'è, e questa legge dice con chiarezza che la Chiesa paga per le attività commerciali che esercita, e quindi paga l'ICI laddove vengono esercitate attività commerciali. Se qualcuno intravede a questa legge che è applicata dallo Stato delle contravvenzioni, le denunci. Quindi ha fatto bene Alemanno a dire: ci sono 11 milioni di elusione, così ci ha detto Stadiarini, le si perseguono. Questo... Io penso che Stadiarini sul nel manico, vale a dire, molto semplicemente il sindaco di Roma ha fatto notare quali sono tutte quelle realtà che all'interno di quel comune hanno diritto all'esenzione. Se poi qualcuno è capace di andare a dimostrare che qualcuna di queste intenzioni ingiustificate, ben venga. Lo faccio. Perché questo è un contributo dei cittadini verso lo Stato. Allora, io mi devo fermare qui perché altrimenti sforo. La ringrazio, onorevole Mauro, il suo pensiero è compiuto. L'onorevole Mario Mauro, europarlamentare, segretario dei radicali Mario Stadiarini, per essere stato con noi. E insomma, il tema che continua anche sulla nostra pagina Facebook 24 mattino, siamo lì. Oggi riattiviamo anche tante cose, le top 3, le top 5, le top 5. E che dire, ringrazio Alessandro Longoni in redazione, che è rimasto qui tutto agosto, così come l'alpino Peter Bescapè in regia, insomma si è ricostituita la squadra, tra poco arriva anche Elisabetta Fusconi. Bene, bene, ci risentiamo domattina alle 7:20.